Radio 24. Libera la voglia di fare. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Va Perotti! La Roma in vantaggio col Monito al minuto 40. Palla in area di rigore, c'è che sì, sentito alle spalle, arriva il cross, Cesni, rimpallo, palla dentro! Palla dentro! L'ha messa in porta ancora Caldara! Sfida Cesni al 90esimo, che sì, contro Cesni. Destro di che sì! Cesni è spiazzato, l'Atalanta in vantaggio, l'Atalanta probabilmente vince ancora, pazzesco a Bergamo, 2-1. C'è calcio di punizione che vuole battere veloce Cesni, ma non c'è più tempo, vince ancora l'Atalanta, 7 vittorie e un pareggio nelle ultime 8, a meno 1 dal secondo posto, a meno 1 dalla Roma, sconfitta 2-1, ancora sconfitta in una partita equilibrata, i richiami di Spalletti non sono serviti, a Bergamo finisce Atalanta 2, Roma 1. Cosa aveva detto ieri Spalletti, carissimo Carlo? Aveva detto: noi dobbiamo fare come la Juventus, vincere le partite come le vince la Juve, anche quando non giochi bene, quando sono difficili, quando sono sporche, quando sono bastarde, quando sono complicate, quando non tutto magari in alcuni pezzi di quella partita filano come vorremmo. Noi dobbiamo fare come la Juve, fare come fanno loro. E invece sì, c'è un problema. Avete sentito? C'è un problema, guarda dove è in classifica l'Atalanta. Sì, Atalanta possono capire molte cose. L'Atalanta ha giocato un secondo tempo praticamente dominando la Roma e quindi il risultato non fa una piega, secondo me. È chiaro che adesso, insomma, siamo al 20 di novembre, il campionato. Sì, la leggiamo la classifica. Juventus 33 punti, Roma 26, Milan 25, ha una partita in meno che il derby di questa sera contro l'Inter, poi Lazio e Atalanta anche a 25 punti, quindi Atalanta che in questo momento è potenzialmente terza in classifica, poi Napoli 24, Torino 22, Fiorentina 20, via via a scendere tutti gli altri. Stasera vediamo se l'Inter si muove da quota 17 punti, 8-0-0-24-0-0-24, subito i contatti, questo per prenotarvi e telefonare, oppure 349-238-6666, sms e whatsapp. Noi vogliamo sapere due cose, cioè se conservate ancora un pizzico di speranza di vedere un campionato da qui che è il 20 novembre a fine maggio. Poi vogliamo anche i vostri pronostici su Milan-Inter, anzi Giorgio De Luca, autore di questa puntata, c'è Filippo Aureggi in regia, carichiamone il più possibile se arrivano. 800-24-0024, Paolo Liguori, ciao direttore, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Abbiamo un problema, Spalletti vi ha detto facciamo come la Juve e io direi che la risposta per fare è come arrivata. La Juve bisogna essere la Juve. Esatto. Sì, per fare come la Juve bisogna essere la Juve. Quando la Juve gioca a Bergamo o quando gioca a Empoli, non fa tutta questa fatica, diciamoci la verità, perché ci sono vecchie e consolidate tradizioni di vittorie della Juve su questi campi, non c'è niente da fare. Però non mi dire che sei della tesi del si scansano, poi arriva la Roma e non si scansano più. È così, no, dai. 6-7 partite in meno la Juve le fa nel campionato. 6-7 partite in meno. Voi lo dice pure Buffon. Credo che significasse quello, però questo, prego. Il paragone, detto questo, sì, significa quello. Ma detto questo, il paragone con la Roma oggi non c'entra, perché oggi l'ha persa Spalletti la partita. Spalletti l'ha avuta nel primo tempo in mano, ha segnato e poteva raddoppiare, non l'ha chiusa, e poi Gasperini le ha azzeccate tutte, la Roma le ha sbagliate tutte. Secondo tempo non c'è stata partita. L'Atalanta in questo momento è più forte della Roma, tatticamente è più forte, è più in forma, corre di più, è meglio allenata. Cosa vogliamo dire? No, l'Atalanta oggi, in questo momento, corre di più di tanti altri. L'Atalanta ha fatto 21 punti nelle ultime 8 partite. L'Atalanta è una squadra corre di più seria di tanti altri, però oggi correva molto di più della Roma, era messa meglio in campo, ha azzeccato il cambio Gasperini che voleva con D'Alessandro, la Roma ha invertito i laterali, ha sbagliato Spalletti, cioè, naturalmente la partita l'ha persa anche lui, non è che quando la vince lui e quando la perde la vince la squadra. Oggi non ha avuto quel Totti che l'anno scorso gliel'ha salvata, l'ha riportata sul pareggio, che se no era la fotocopia della partita dell'anno scorso. scorsa. Sì, io però vi aggiungo anche un altro, aggiungo anche un altro elemento. Fuori casa in questo campionato la Roma ha perso a Bergamo oggi, ha perso a Torino, ha pareggiato, ha perso a Firenze, ha pareggiato a Cagliari ed Empoli, ha vinto solo a Napoli e contro il Sassuolo, che per carità la vittoria di Napoli è una vittoria pesante, però io credo che probabilmente ci sia anche un ragionamento di sopravvalutazione di quelle che sono le possibilità della Roma. È caduto, adesso lo recuperiamo, non so se Paolo Liguori. Sia una sopravvalutazione, la Roma è certamente una eccellente squadra, ripeto, giocare oggi a Bergamo è una cosa molto difficile, basta, ripeto, leggere la classifica per capire che l'Atalanta non è solo una splendida covata di giovani, ma anche una squadra molto ben allenata che ha anche il vantaggio di correre molto leggera. Ma d'altra parte Gasperini è intervenuto qualche giorno fa ai nostri microfoni e l'ha ammesso candidamente. Noi non abbiamo praticamente obiettivi, siamo lì davanti, continuiamo a correre e non abbiamo nessun peso sulle spalle. La Roma ovviamente pesi sulle spalle ce li ha, e oggi si è vista la squadra più in forma del campionato contro una squadra che ha praticamente regalato il secondo tempo, ha ragione il direttore nel dire che è stato più bravo Gasperini rispetto a Ma qual è la dimensione di una squadra che fa 8 punti nelle prime 7 trasferte, direttore? No, 8 punti nelle prime 7 trasferte è una squadra che non è messa in campo per vincere in trasferta, è una squadra che ha un gioco casuale in trasferta, che non riesce a portarsi a casa. Le recriminazioni della Roma non sono certamente quelle di Bergamo, le recriminazioni della Roma sono quelle di Cagliari, quelle di Empoli, quelli sono i punti persi, non Bergamo. Bergamo comunque anche il pareggio sarebbe stato un grosso risultato oggi contro questa Atalanta, perché è una squadra messa meglio, più forte e meglio allenata. Che si deve dire, quando tutti gli 11 giocatori corrono di più, si trovano meglio, riescono a investire a metà partita la tattica e vanno come sono andati nel secondo tempo, cosa si deve dire? Che una è allenata meglio dell'altra, questo non c'è dubbio, perché i giocatori come valore individuale sono gli stessi che venivano celebrati nelle scorse giornate, Nainggolan, ecco. Oggi De Rossi tra l'altro ha fatto una grandissima partita, però il punto non è quello, il punto è che la squadra nel suo complesso a un certo punto è frenata e gli avversari giocavano meglio. Lì l'allenatore si deve interrogare e comunque deve lui fa sempre questi stimoli alla squadra, ai giocatori, al carattere, ma deve pure mettere in campo le sue responsabilità, no? Io comunque... Noi diciamo che l'Atalanta ha dei giocatori così così, è un grande allenatore. Allora la Roma, che ha dei giocatori che valgono un sacco di soldi, perché poi alcuni valgono un sacco di soldi, sono sulla carta superiore, c'ha un allenatore scarso? No, ma io penso cantiamo insieme il De Profundis al campionato? Ma dei profondi del campionato, quello è un altro discorso, ve lo ripeto, voi arrabbiate quando ve lo dico, ma quello è un altro discorso. No, ma non puoi dire che lo si scansano, dai, direttore. Il discorso del campionato, al momento attuale, nei rapporti di forza complessivi, economici, eccetera, il campionato italiano è Juventus. Questo è, non che si scansano. Sì, ma se la Juve per caso gioca male, è Juventus lo stesso, quindi state tranquilli, non c'è problema, stiano tranquilli, facciamo stasera un bel tifo per un derby milanese che non conta, ma ci piacerà a tutti vedere, ma non per il campionato, capite? Vediamo. Io ti voglio provocare, ma la Juve avanti 1-0 inizio secondo tempo a Bergamo oggi l'avrebbe vince 2-1, l'Atalanta magari pareggia, la Juve segna. Ma la Juve con l'Atalanta c'ha affari sui giocatori, ma non è solo per quello, io dai. Ho 77 anni, quando avevo 15 anni l'Atalanta era la supportata della Juve, quando io ero ragazzino, cioè 50 anni fa. Non è cambiato niente. Sue partite a Bergamo le ha anche perse la Juve. Gasperini è stato allenatore delle giovanili della Juve, no? Sì, però l'Atalanta sta suonando a molti. Ma com'è? Ve lo dice pure Buffon e dite no, ma voleva dire un'altra cosa. Che altra cosa voleva dire? Io penso che sia assolutamente limitativo. Io penso sia assolutamente limitativo ragionare su quello che è la Juve in questo momento come strapotere, pensando che sia così perché gli altri si scansano, però insomma, poi ognuno porta il suo parere e tutti sono rispettabili. No, certo, ma ognuno porta il suo parere e tutti sono rispettabili, ma non potete escluderne uno solo, è fondato, statisticamente provato, eccezionalmente confermato, ecco, perché sennò si dice sempre, no, per carità, che stai dicendo, tu ci bestemmi in chiesa, va bene, grazie. Va bene, grazie direttore. Arrivederci. Ciao, grazie direttore. Paolo Liguori, secondo me non l'ha presa benissimo. No, l'ha presa malissimo, però ci tengo a sottolineare che è stato, cioè quella storia del Siskenso di Buffon è stata ufficialmente smentita ad alto livello. Ah, insomma, ognuno fa atto di fede su chi credere, se Buffon è la Juve, ragazzi, o se... Io cioè, non è che la Juve smentisca ogni articolo che... No, che quello è no, contrario. Che se la vedano fra di loro. Possiamo restare su questa posizione, usciamo anche dalle polemiche di ieri, di accrediti, non accrediti, giornalisti che vanno in tribuna, in curva, nei distinti a scrivere. 800-24-0024, c'è chi scrive l'Atalanta sarà il Leicester del 2017. Magari, anche se ha una piccola iella, che in questa Premier League gioca una squadra che è nettamente superiore e che probabilmente avrebbe vinto anche la Premier dell'anno scorso. Aspettiamo però Spalletti, sarà interessante. 800-24-0024, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta... convocati. Oh, tanto l'Atalanta non ha ancora giocato in questo campionato con la Juve, quindi non si è ancora potuta scansare per tenere dietro alle ipotesi Paolo Liguori. Una buona serata a tutti quanti, senatore, con la consueta sportività e pagatezza che contraddistingue il sottoscritto. Io vi dico, scansano tutte, l'Atalanta a succursale da Juventus, c'aveva ragione Liguori. Ma non è vero. Lo dico spassionatamente, in maniera sobria, all'insegna della massima sportività, dico basta questa classe arbitrale bolscevica e sovietica e filo juventina. A Rocchi dico che la caviglia del Papu Gomez si è autoagganciata al piede del parete, certo. Rigore siamo al campionare, fatemi salutare il nostro Andro Merco, fatemi salutare Tony Damascelli intanto, ciao Tony. Ciao a tutti. Allora, cosa dobbiamo cantare oltre al De Profundis di questo campionato? A meno che questa sera il Milan, vincendo, va a 28, va a 5 dalla Juve, possiamo provare a tenerlo artificiosamente in vita. Prego, Tony. Era già un cadavere all'inizio dell'anno, all'inizio a quest'estate. Sì, classico morto che cammina, dead man walking. Certo, cioè, ma non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché oggi la Roma ha perso la partita nel secondo tempo pensando anche di poter vivere di rendita. Nel calcio vive di rendita nessuno, nemmeno il Barcellona, nemmeno il Bayern di Monaco, non vive di rendita nessuno. Possiamo dare tutti insieme grandi meriti all'Atalanta? Certo, volevo dire questo, oggi ho visto giocare ancora questo ragazzino Gagliardini che ha 22 anni, un italiano, Roberto Gagliardini, è uno dei tanti giovani, abbiamo un buon serbatoio, Belotti ha fatto 2 gol oggi, ogni tanto ci scopriamo di avere qualche talentino, quindi merito all'Atalanta, merito Gasperini che è un allenatore di grande spessore professionale, che ha fallito la sua stagione a Milano come hanno fallito in altri anche più illustri di lui, è un allenatore che ha fatto giocare bene il Genoa, sta facendo giocare bene dopo un periodo duro, i primi due mesi l'Atalanta, e Bergamo si conferma una delle piazze dove si gioca un bel calcio sanguigno, un bel calcio di corsa e di freschezza. Sì, dove partite come queste sono il pane, stagioni come queste. Ti chiedo 30 secondi perché sentiamo l'inizio di Spalletti a Mediaset Premium. Sì. Che fanno quello che è il loro dovere, cioè prendono la palla, si organizzano e tentano di farti gol. Nel primo tempo noi siamo scesi in campo al di là dei primi 10 minuti abbastanza bene, abbiamo giocato la palla come dovevamo fare perché la nostra è una squadra che deve giocare la palla. E nel secondo tempo questo non ci è venuto meno, non l'abbiamo fatto e di conseguenza loro sono saliti poi in cattedra e hanno avuto la bravura di portare a casa un risultato, un risultato che per noi è un risultato pesante e per loro è una bella vittoria. Non c'è dubbio. Come mai non siete riusciti, malgrado il vantaggio, a gestire? Sembrava proprio che facevate fatica ad uscire, soffrivate questa Atalanta che è sembrata anche più fresca dal punto di vista atletico, ma era una squadra che faceva proprio fatica a ripartire, tant'è vero che non ha costruito tantissimo poi nel secondo tempo. Ma secondo me è un po', fa parte un po' della caratteristica, perché quando poi si alza il livello di lotta delle partite, noi diventiamo meno bravi o gestiamo la partita in velocità, con qualità tecnica e riusciamo a fare il nostro calcio, o se no, se questo viene un po' ad abbassarsi e diventano dei continui duelli, noi da un punto di vista poi di qualità perdiamo qualcosa, concediamo qualcosa, e se poi si commettono anche un paio di ingenuità, come ci è successo anche nell'episodio di rigore da ultimo, è una sconfitta che ci può stare. Allora, questo è Spalletti che sta commentando. Io devo dire che non ha tutti i torti. Sentivamo prima Paolo Liguori quando dice: beh, però Spalletti le partite le perde anche lui. Ogni tanto, non so Tony come la pensi tu, sembra dispensare lezioni agli altri, in questo caso i giocatori. Quando ad esempio oggi, su alcune scelte nel secondo tempo, Gasperini ha fatto forse meglio di Spalletti. Sì, sì, ma poi abbiamo capito che chi si estranea dalla lotta, lo sappiamo, eccetera, eccetera. Qual è la rima. Ora, avendo dei giocatori che si chiamano Strootman, Nainggolan e lo stesso Dzeko, dire che quando la partita si mette sul piano agonistico, quindi della lotta, la Roma entra in difficoltà, mi sembra abbastanza singolare. La squadra nel secondo tempo era cotta, reagiva. Appunto, non mi sembra reagiva. Più una questione fisica che non, esatto, che non esatto. agonistica. Quindi ho visto più volte i giocatori litigare, discutere tra di loro, Manolas e Perez, redarguire prima Salah e poi credo lo stesso Sharabi, perché non recuperavano. Ora che a Bergamo dovessero recuperare sia Salah che Sharabi vuol dire che c'era una disorganizzazione in mezzo al campo, cosa che poi è stata confermata a un certo punto dall'uscita di Nainggolan, che secondo me quest'anno non sta esprimendosi come l'anno scorso. Ti faccio sentire, sono 14 secondi da ieri sera dopo partita di Juve Pescara, perché oramai ci attacchiamo a questo. Se dobbiamo discutere della Juventus, Allegri sulla questione del giocare male: secondo me altre volte la Juve in Italia aveva vinto andando in quarta e non in quinta. Ieri ha battuto un record, ha vinto andando in terza, forse anche qualcosa meno. Io so solo che la Juventus ha una sua identità e dopo l'identità va trasformata in campo con delle vittorie e dei risultati. Ci sono delle partite in cui giochi meglio, delle partite in cui giochi peggio, però dopo, anche quando giochi male, devi portare a casa il risultato, perché dopo alla fine sono punti che fanno classifica. Allora, ha o no il dovere Allegri di farla giocare un po' meglio? Da marzo in poi, da marzo in poi, Tony, ma questa storia di marzo è veramente ridicola. Una squadra non può andare in condizione a marzo, e fino a marzo cosa fa? Vince il campionato. Cerca di far punti grazie al colpo di uno, alla fortuna, al fatto che la squadra avversaria sbagli un gol, un rigore o abbia degli infortunati. No, non esiste. Questa è la peggiore Juventus degli ultimi 5 anni. Parlo della qualità del gioco, poi è in testa la classifica, può qualificarsi ancora al turno successivo di Coppa dei Campioni, può vincere la Supercoppa, questo è un altro discorso. Balmamion ha vinto un Giro d'Italia senza vincere una tappa. Vabbè, ma poi non è che si passi alla storia soltanto con il risultato. La Juventus di 5 anni, compresi quelli di Allegri, è passata alla storia anche per il gioco, o forse soprattutto per il gioco, poi per dei record di punti, per la rabbia, per la fame, sì, qualche aveva. Alibi ce l'ha, perché qualche infortunio tipo importante, non tanto per fare il risultato lo sta facendo, lo vediamo, però nella costruzione di un progetto, quando tu hai cambiato 3 o 4 titolari, se poi perdi Dybala per 2 mesi, Marchisio non ce l'hai avuto inizio stagione, qualche alibi può averlo. Sì, però lui ha impiegato 4 mesi per giocare a 3 davanti, cioè con Cuadrado insieme con 2 punte. Quando veniva detto, almeno dal sottoscritto, che non poteva rinunciare a Cuadrado, a un esterno, comunque vero, un'ala, come si diceva una volta, lui continuava a respingere questa tesi, dicendo che i 2 potevano stare lì e i 4 in mezzo al campo, addirittura 5 in alcuni casi. Cuadrado è necessario, è indispensabile per questa squadra. Cambia il ritmo, spacca il gioco avversario, non è un fuorclasse, salta l'uomo, ma è un giocatore importante che dà respiro ai due davanti. Se poi Higuain è stato comprato per fare la spalla a Mandzukic, io avevo previsto che Higuain, lo dico adesso, quello lo sapevo già, che Higuain non avrebbe segnato gli stessi gol l'anno scorso, ma li avrebbe fatti segnare i suoi compagni. Però sacrificarlo per il gioco degli altri mi sembra una operazione, un onanismo non necessario. Sì, continua a toccare troppi pochi palloni. Grazie Tony. Grazie Tony. Grazie a voi, buon Ciao. Lavoro a tutti. Grazie Ciao. A Tony Damascelli. Tanto gli amici da casa sono scatenati, 349-238-6666, tutti con le cuori, la teoria dello scansarsi. Che io contesto fortemente, soprattutto anch'io, in una domenica come questa. Soprattutto in una domenica totalmente. Come questa. Dai, prima della pausa ci sono Riccardo e Giovanni. Riccardo da Pescara. Pronto, buonasera. Eccoci. Eccoci, buonasera. Ovviamente voglio parlare proprio del discorso di Liguori. Sì. Cioè, perché con tutto il rispetto, però sinceramente non credo che sia da mandare in radio. No, ovviamente non è una critica a voi. Noi invitiamo ognuno alle sue opinioni. Per carità, se non offendono e non calugnano. Un giornalista si aspetta delle cose più equilibrate. Viene a dire che Gasperini si scansa perché è un ex juventino, quando invece forse le uniche vittorie contro la Juve, cioè le uniche sconfitte col Genoa la Juve le ha subite con Gasperini. Anche. Parla di Atalanta storicamente vicino alla Juve. Vabbè. L'Atalanta avrà cambiato 5 proprietari negli ultimi 20 anni. Riccardo, io l'abbiamo detto anche 10 secondi fa, poi che l'Atalanta sia storicamente una società vicina alla Juve nelle questioni di mercato lo dice la storia del questo calcio. Non adesso conta nulla, non raccontiamo il contrario, perché altrimenti, altrimenti si fa antistoria. Scusa, quanti giocatori hanno fatto la tratta Milano-Genova? E allora cosa dobbiamo dire? Che il Milan tutte le volte che gioca col Genoa vince facile? Ma sono discorsi che non, secondo me, che hanno poco senso. Questi. No, ma poi soprattutto io credo in una domenica come questa c'è chi chiede di ricordare quanti rigori ha avuto fin qui la Roma. Ne ha avuti 7 nelle prime 12 giornate e ne ha avuti, se non sbaglio, 3 contro. I 7 li ha realizzati tutti. E dei 3 contro, se non ricordo male, 2 sono stati segnati, compreso quello di Kessié oggi, 1 è stato sbagliato. Giovanni da Ragusa. Sì, buonasera. Eccoci. Giovanni. Allora, innanzitutto volevo fare i complimenti a Tony Damascelli, il grande Tony Damascelli. È stato lui a coniare la parola popolo, il popolo milanista. Vi ricordate quando il Milan venne retrocesso in Serie B? Sì. E Tony Damascelli, in un articolo su Forza Milan, diceva: nonostante la retrocessione vengono inaugurati nuovi Milan Club in tutta Italia. Sì, avevo 10 anni, perdonami. Questa, però no, questa è una storia. Ci fidiamo. Questa è la storia, nel senso che è quasi un paradigma ricordare il Milan Cavese con 60.000 spettatori presenti, il Milan Monza, è un popolo estremamente affezionato alla squadra, o almeno era. Adesso vediamo cosa succede, sì, dopo un periodo meno, di vabbè, ma succede in tutti vediamo, i matrimoni. Vediamo se arrivano i cinesi, e quando arrivano i cinesi che cosa succede. Perdonatemi se intervengo, però sento delle cose poco coese e decisamente poco positive. Il Milan non è mai stato in Serie B. No, non è vero. No. L'ha detto anche Milan Giovanni D'Arenusa. Non è mai stato in Serie B e queste illazioni mi sembrano eccessive. Siate più coesi e più positivi. Che intanto salutiamo. Questa sera sarà tra l'altro a San Siro, forse per l'ultima da proprietario. Sarà il primo di una serie di tanti derby che vivrò da presidente. No, è l'ultimo. Riusciamo a fare prima della pausa Luca da Pisa? Dai, Luca, ciao, eccoci, vai. Ciao, siete favolosi innanzitutto. Allora, sto venendo via dalla sagra del Torrone di Cremona, quindi sono bello preciso. Sei ancora più favoloso tu, allora. Dai. La sagra del Torrone, la adoro. Complimenti. Bravo. Un liguore incredibile. Scusa, ma avete tolto tutti anche le annotazioni da fare, perché anche Carlo che ha detto allora il Milan col Genoa. Io fondamentalmente dico una cosa al volo. Ho fatto l'università a Milano, avevo con me un mio compagno di stanza che era romano, romanista, e è dal 2001 che sento fare questi discorsi. La Roma non ha ancora vinto niente, praticamente. E lo dico da tifoso viola, che quindi la Juventus non mi sta neanche particolarmente simpatica. Però è una cosa un po' diseducativa proprio sentir dire queste cose. Si dimostra una piccola tifoseria fondamentalmente, perché la dietrologia è sempre dietro l'angolo. Possiamo certamente dire che sono due squadre tra cui c'è una rivalità storica, l'Atalanta e la Roma, quindi è chiaro che oggi i tifosi bergamaschi festeggiano doppio, perché Atalanta-Roma è sempre una partita molto sentita, molto calda, ma questo non vuol dire niente con quello che è successo in campo. Parlano i numeri, al di là di quello che abbiamo visto oggi. 7 trasferte, 8 punti, sconfitte a Firenze, Torino con il Toro e Bergamo con l'Atalanta, pareggi contro l'Empoli, il Cagliari. E, insomma, lasciamo stare se l'Atalanta si scansa di più con la Roma e di meno con la Juve. Scusatemi, ma voglio dire una cosa all'ascoltatore, una cosa importante. Sì, abbiamo la pausa e devo dire a questo nostro carissimo ascoltatore, è vero, viva il torrone, ma soprattutto viva la gnocca. No, pausa subito, torniamo. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole, nuova meta, stessa passione. Tutti convocati. Questo tema dell'Atalanta che si scanserà, perché non ha ancora giocato con la Juve, o si scanserebbe, o si è scansata negli altri anni, e non lo fa ad esempio con la Roma, ma non solo, perché gioca con il coltello tra i denti, appassiona molto, devo dire, i nostri amici da casa. Allora, io vi ridò i contatti, 800 24 00 24, però aspettiamo anche i pronostici sul derby, fino alle 19, poi abbiamo dei grandi ospiti, oppure 349 238 6666, sms e whatsapp, c'è chi... Roberto D'Andria dice da 13 anni non prende un punto l'Atalanta tra andata e ritorno contro la Juve. Io non lo so, vi do però i numeri di Atalanta-Juve, visto che interessano, nei 55 precedenti a Bergamo, 7 vittorie dell'Atalanta, 25 pareggi, 23 vittorie della... scusate, 22 pareggi, 26 vittorie della Juventus. Ultima vittoria dell'Atalanta nel 2001. Questi sono i numeri. C'è chi scrive: questa è una grande Atalanta. C'è chi scrive: non c'è solo l'Atalanta che si è inchinata, anche il Sassuolo, che un anno fa, se non ricordo male, aveva praticamente tolto la Juve dalla corsa scudetto. Ho capito, però anche lì no, vai a valutare... alla faccia di scansarsi. No, ma poi Giovanni, scusami, vai anche a vedere il momento delle squadre. Il Sassuolo sta vivendo un pessimo momento. Oggi ha subito questa rimonta incredibile con la Sampdoria. Sta soffrendo le coppe, ha molti infortunati e certamente non è una squadra in condizione. L'Atalanta in questo momento è la squadra più in forma d'Italia, punto. Allora, Enzo e Francesco, Enzo da Perugia. Pronto? Eccoci, Enzo. Sì, pronto. Sono già intervenuto diverse volte. No, non è che ci appassiona il discorso, ci schifa un pochino. Sì. Soprattutto quando le esternazioni escono dal testimonial del complesso di inferiorità tale Paolo Liguori. Insomma, è il perfetto testimone. Ognuno porta avanti le sue idee. Io non sono d'accordo, però se perdona lei e se perdonate tutti, noi qui invitiamo, se uno non diffama può parlare, però prego. Poi può pensare allora, come questa, ho aperto questa parentesi, ci stendiamo subito il velo pietoso. No, io chiamavo in qualità di tifoso juventino, ma di quelli proprio cattivi, diciamo, quelli... Ma come si fa a sopportare il calcio che fa giocare quell'inetto di Allegri? Addirittura, inetto. Ma santa di una Madonna, ma è una cosa inguardabile, ma è una cosa inguardabile, con la qualità che ha a disposizione, una cosa inguardabile. Non c'è modo di vedere una partita giocata come Dio comanda da questa squadra. Aspettare un po', no? Gli hanno speso 180 milioni, gli hanno speso. Sì, ha fuori qualche giocatorino importante tipo Dybala. Aspettare un po', no, è prima in classifica, in fuga, se poi sì, mi sembra un po' ingeneroso. Se poi si vuole anche vedere il Barcellona, allora si guarda il Barcellona. Sì, che ieri ha fatto tra l'altro 0-0 col Malaga, è staccato di 4 punti dal Real, quindi, quindi sì. Non è che stia incantando, sta vivendo un inizio di stagione un po' particolare. Io credo che Allegri l'obbligo di farla giocare meglio, la Juve, e non a marzo, questo sicuro. Anche subito. Però credo anche che stia facendo due conti tra infortunati, tra giocatori che sono appena rientrati, eccetera. A proposito di Spagna, andiamoci. Ahí va Cristiano, Pau Black bajo palos, barrera de 5 nel Atlético de Madrid. Veremos rechace, pómelo cuchillo González, va el bicho, le pega el bicho. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Bicho, va a tomar carrera el bicho, ahí va a tomar el aire necesario para golpear el penalti. Oblak bajo palo, va a ejecutar Cristiano, chuta Cristiano, gol. Y gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Mira que va a ganar el Bale, va al expreso de Gale, se mete en el área, la pone, Cristiano remata. Y gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Y gol del Madrid. Carissimo Filippo Maria Ricci, ciao. Ciao Phil. Come andiamo? Buon pomeriggio. Mi sembra che venerdì ci abbia preso Pardo, che pure aveva pronosticato uno in Udinese-Napoli, però sul derby di Madrid mi sembra ci abbia preso. Eh sì, decisamente, va detto, va assolutamente riconosciuto i meriti. Divinatori. Senti, ma cosa succede al Ciolo? Ha perso un po' il tocco magico, l'antivirus. L'identità ha perso, perché adesso che vogliono cominciare a giocare a calcio non sanno neanche più difendere. È un paradosso tremendo per il povero Simeone, perché in realtà se uno guarda alle partite di quest'anno dell'Atletico è una squadra nettamente migliore a quella dell'anno scorso, almeno diciamo per un profilo neutrale. Se tu vuoi andare a vedere l'Atletico l'anno scorso, magari negli anni scorsi non ti divertivi granché, quest'anno giocano bene, però non vincono più. E quindi meglio, diciamo, è troppo italiano il Ciolo per permettersi certi voli vintage, probabilmente lo starà pensando anche. Non è che è in testa solo l'Inter, come scrive un amico da casa. No, assolutamente. No, qui io allora ogni volta, diciamo, si finisce a parlare di questo, no? Ieri non c'erano dubbi che l'accordo tra Simeone e l'Atletico è per restare non solo quest'anno, ma anche l'anno prossimo insieme, perché deve accompagnarli in questo freddo e periferico nuovo stadio alla Peineta, no? E quindi hanno paura l'impatto, no? L'addio al Calderone e questo è. Poi è chiaro che se le cose vanno molto bene, ovvero non so, vincono una Champions, o molto male, nel senso che continuano a perdere così come stanno facendo adesso, magari le cose potranno cambiare. Però l'accordo al momento è questo. Poi vediamo se ci sono gli estremi perché cambi in qualche modo, no? Insomma, Allegri non va bene perché la Juventus gioca male e vince. Simeone non va bene perché prova a far giocare l'Atletico quando non ha il tocco magico. Non ha le caratteristiche. Tra l'altro l'Atletico credo sia l'unica squadra che ha vinto 4 su 4 in Champions fin qui. Sì, prima sul girone. Sì, però ha perso 3 delle ultime 4 in Liga. Cioè, questo è il vero problema. Adesso, infatti, è anche questo se vuoi, fa parte del paradosso. Si sono abituati a far bene in Champions e, no, secondo me nella testa hanno veramente, e questo voglio dire, gli fa anche grande onore, l'idea di provare nuovamente ad arrivare in fondo alla Champions, no? Che dopo le due mazzate che hanno preso in 3 anni dimostra una certa solidità mentale. Però vediamo come va a finire, no, in Liga. E del Barcellona invece cosa raccontiamo? Senza Messi, oggi non mi ricordo quale dei quotidiani di Barcellona ha titolato maledetto virus FIFA, cioè dopo le soste il Barcellona fa sempre fatica, 0-0 con il Malaga. Sì, non è solo Messi, era la prima volta in Liga da quando c'è Suarez che mancavano tanto Messi come Suarez, no? Vuol dire, non si possono regalare. Il Barcellona è una buona squadra, poi in più mancava anche Iniesta, Luis Enrique ci ha messo del suo, ha lasciato anche Rakitic in panchina, sono 4 giocatori, voglio dire, troppo determinanti, no? Soprattutto i 2 attaccanti e Iniesta, il Barça sono loro, poi voglio dire, attenzione, gli ha anche annullato un gol regolare, se no vince 1-0, un po' rimediato e ci metti una pezza. Però è chiaro che il Barcellona, no, senza Messi non è la stessa cosa, ecco, questo senz'altro. Mentre, se vogliamo, ieri, non l'abbiamo citato prima, abbiamo parlato tanto dell'Atletico, ma Real Madrid con tantissimi assenti ha messo in luce anche alcune qualità di Zidane, no? Piano piano sta diventando un grande allenatore. Sta diventando un allenatore vero. Non lo so se è grande, no. però vero. Sai qual è la prova lì? Non so se siete paradossalmente è più facile diventare grande allenatore con le assenze che con i giocatori, perché quando ci sono tutti, quando sono al completo, la formazione non la fa Zidane, è già fatta. Cioè, noi abbiamo avuto Ancelotti, poi Benitez, adesso Zidane, e la formazione è sempre la stessa. Quando ci sono le difficoltà perché mancano dei giocatori, allora lì, ieri si è visto, perché adesso parliamoci chiaro. Ma qua, se Benzema sta è al 100%, gioca Benzema, Isco non ha posto, non potrà mai fare il 10 come ha fatto ieri. Certo, certo. E quindi ieri è chiaro, mancavano Cioè, ieri è stato intelligentissimo, cioè, torna Casemiro, gioca Casemiro, cross, gioca, lasciamo stare la difesa, che no, anche lì è uguale, però soprattutto davanti, per Isco, con il fisico che c'ha, no? Dico, non potrà mai correre dietro agli avversari. Ieri l'ha messa a fare il 10, ha fatto un partitone, ma quando mai abbiamo visto giocare il Madrid con 10 negli ultimi 3, 4, 5 anni? Ogni tanto gli allenatori del Real Madrid sono più fortunati nelle settimane in cui hanno qualche turnover obbligato per infortuni, squalifiche o altro. Credo che questa sia un classico per tutti. Grazie Filippo. Ciao Phil. Grazie sentiamo a voi. Presto. Ciao. Grazie ciao. Filippo Maria Ricci. Intanto in questo momento Conte primo nella Premier. Siamo nel finale del primo tempo. Il Chelsea vince 1-0 contro il Middlesbrough. Fuori casa appena segnato Diego Costa. In questo momento il Chelsea è primo. Traffico. Tutti convocati. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Tutti convocati. Rubata! Fatta Maradona! Rubata! Che bello, guarda! Basta andare fuori! Guarda che rubare una rimessa laterale a loro! Eccolo! L'Italia! Eccolo l'Italia! In Sudafrica! Per la prima volta nella sua storia! Un risultato straordinario! Nessuno poteva pensarlo all'inizio! No. Ci speravamo, no, ma no. Nessuno poteva pensarlo! No! Nessuno poteva pensarlo, invece è successo, carissimo Giacomo Bagnasco, ciao! Ciao, ciao Giovanni, come si deve mettere una settimana insomma, da a Leoni? Ma evidentemente la squadra era convinta di non essere andata troppo male, almeno a livello di mentalità, di preparazione, e qualcosa stava bollendo. Certo, gli All Blacks in questo momento sono straordinariamente più forti anche del Sudafrica. Il Sudafrica è una squadra in difficoltà, ma questo, se permettete, non lo consideriamo, perché quando loro ci hanno battuto 101-0 non sono venuti a vedere se eravamo in difficoltà oppure meno, cioè chi vince ha ragione, soprattutto quando le squadre che si sono affrontate erano squadre schierate al meglio. E contro questo Sudafrica l'Italia ha ottenuto la prima vittoria nei confronti di una squadra che ha vinto una Coppa del Mondo. Non aveva mai battuto le tre grandi dell'emisfero sud, vale a dire Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, più in Europa l'Inghilterra. Col Sudafrica ce l'abbiamo fatta, per il resto ci sarà da aspettare. Volevo dirvi che ho sentito un po' tutte le discussioni che ci sono state, allora se ci parla di Gasperini, per cui il mio cuore naturalmente continua a battere, vorrei dire che anche O'Shea ha fatto qualcosa di grande all'inizio del secondo tempo, mettendo in campo... Pensavo ci stessi timoni. Dicendo che il Sudafrica si è scansato. Ho tremato. Arriviamo anche lì. Due piloni esordienti. Ecco, una scelta di questo genere contro la squadra che fa della mischia il suo marchio, che a lungo ha avuto la mischia più forte del mondo, significa tanto coraggio. Dopodiché, se è una scelta che va male, è un coraggio mal riposto. In questo caso è stata invece una grandissima decisione. Ovviamente, ecco, l'altra cosa che volevo dire, la prova degli azzurri commovente, se vogliamo, però non dobbiamo limitarci solamente all'aspetto del carattere, perché sono stati lucidi anche in attacco. In difesa però chiaramente non si è scansato nessuno, e se Tony Damascelli diceva che chi si estranea dalla lotta, ecco, beh, non è proprio il caso, non è il caso nel rugby. Ma quindi noi che cosa siamo esattamente? Cioè, siamo quelli che non sono nemmeno scesi in campo con la Nuova Zelanda, siamo quelli che, insomma, se tu vedi ieri, seconda partita di un nuovo CT, vince col Sudafrica. Si sta rinnovando. Che cosa siamo? Siamo una squadra che finalmente si sta rinnovando. In realtà non è proprio la seconda, nel senso che avevano già giocato tre partite nella tournée estiva, la seconda in casa. In ogni caso, torno a dire, è una squadra che sta partendo adesso, è una squadra che ha un grandissimo coach della difesa, che è Brendan Venter, ex campione del mondo, guarda caso proprio col Sudafrica, è una squadra che ha studiato bene la partita, il piano di gioco, dopodiché diciamo che la difesa in particolare è stata straordinaria, perché nonostante tutto, almeno nel primo tempo, il Sudafrica ha avuto la supremazia territoriale, è arrivato più volte a un metro dalla meta, ha segnato due mette coi tre quarti, ma di sfondamento con la mischia sta ancora aspettando adesso di varcare quella linea. Nel secondo tempo l'Italia ha cominciato concedendo un uomo per 10 minuti, in alcuni momenti per dei piccoli infortuni, prima a Minto e poi a Favaro, siamo rimasti addirittura in 13 per qualche secondo, l'Italia ha resistito lo stesso. Poi ecco, nominato Favaro, io direi che questo non solo perché gioca nei Glasgow Warriors, ma è un Highlander, bisognerebbe replicarlo, e quando c'è lui il famoso leading by example, cioè comandare dando l'esempio senza bisogno di parole, ecco, lui lo incarna. Sai, io, pieno, è un giocatore. Giacomo, io comunque è da un po', nonostante la sconfitta pesante contro gli All Blacks, che ho l'impressione che O'Shea abbia cambiato qualcosa nel modo di pensare il rugby della nazionale italiana, ma fin dalle radici, o che stia provando a farlo, cioè si respira con lui comunque un'aria diversa. Questo può essere, anzi credo che sia proprio così, per la convinzione con cui viene seguito da tutto il clan azzurro, cioè dai tecnici, anche quelli che lui ha già trovato, dai giocatori, che evidentemente vengono anche stimolati e convinti nella maniera giusta. A maggior ragione, visto che è appena arrivato, dobbiamo dire due cose. Primo, come ha detto lui, guardate, siamo strafelici, ma abbiamo tantissimo da lavorare. Può darsi che l'Italia diventi una grande nazione del rugby, ma per adesso non lo è e c'è da lavorare tanto. Prima. Seconda cosa, guai a non lasciargli carta bianca, perché lo abbiamo detto ancora prima che arrivasse, appena abbiamo saputo il suo nome, abbiamo detto che la federazione ha scelto degli uomini sicuramente validi come lui, come Stephen Abbott, altro irlandese che è stato responsabile di tutto lo sviluppo giovanile della federazione irlandese, e vediamo l'Irlanda dove è arrivata, quindi bisogna lasciarli lavorare. Visto che abbiamo citato l'Irlanda, ieri quella famosa rivincita a Dublino, sì, gli irlandesi l'hanno persa, vabbè, insomma, 21-9. Era anche prevedibile, eh? Sì, ma comunque non è che abbiano chinato il capo, oltretutto hanno subito 3 infortuni molto gravi nel primo tempo, è finita 21-9. Tutto sommato le squadre del sud, dell'emisfero sud, sono un po' meno dominanti dell'anno scorso, se è vero che oltre al Sudafrica anche l'Argentina ha perso in Scozia 19-16 e l'Australia ha faticato non poco a battere 25-23 la Francia. Si stanno prendendo un quarto d'ora accademico, Giacomo. Sì, anche secondo me. Ti salutiamo, ciao Giacomo, grazie. Ciao, a presto, e seguiteci anche sul sito. Ovviamente ci torniamo, sito del Sole 24 Ore. Allora, ci sono Francesco da Prato e Omar da Bergamo. Francesco? Sì, Omar, ci sei? Allora, noi abbiamo il GR adesso. Appena dopo il GR ripartiamo da voi. Questo è un imperativo categorico. 800 24 00 24, GR. Tutti convocati. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Namo, let's go! Tutti convocati. Ch Posizione regolare per Sosa, prova il sinistro per Berti, una grandissima conclusione al volo, è un gol meraviglioso questo. Serginho, buco interno, Serginho, 6-0, non ho mai visto una cosa del genere in un derby, Lancio di Moriero per Ronaldo, rete, il raddoppio dell'Inter con Ronaldo, Inter ancora una volta estremamente pratica, Moriero pesca in area Ronaldo, Seedorf, prova anche lui il destro, Clarence, Seedorf. Che gira subito, si infila nello spazio Milito, riesce a guadagnare il pallone Milito! Principe Milito! Cerca spazio lui, Gattuso ancora per Pato, attenzione a Robinho, sbucca lui, Pato tutto solo, rete! Allora, intanto vi raccontiamo della solita folle dopo partita, del solito folle dopo partita di Bergamo. Scontri si segnalano fuori dallo Stadio Azzurri d'Italia dopo Atalanta-Roma, coinvolti tifosi, polizia, cariche, bombe carta, lancio di lacrimogeni. Oggi c'erano 1500 tifosi della Roma, c'erano oltre 400 agenti, c'era tanta paura e evidentemente era una paura assolutamente giustificata. Poi a me viene in mente quando, insomma, ci furono mille polemiche, quando criticai quella cosa del tank che passava sopra due macchine dipinte con i colori di Brescia e di Roma. Tutti mi dissero, ma no, è solo una goliardata. Ogni volta che succedono queste cose mi viene in mente quell'episodio. Intanto è venuto a trovarci Franco Ordine, ciao Franco. Eccomi qua. Di passaggio, buonasera, verso il maestro. Grazie, buonasera. Allora, abbiamo una promessa da far riscuotere, però non vedo più i nomi. Cominciamo comunque con Roberto da Vicenza, 800 24 00 24. C'è anche, mi è sparito, vabbè, cominciamo con Roberto, poi chi c'è passiamo. Roberto. Sì, ciao, buonasera. Eccoci. Vi ringrazio intanto per avermi fatto intervenire. Sono un tifoso della Juve, ma volevo parlare di Gasperini. Allenatore sempre sottovalutato. Sì. Fa giocare benissimo il gioco. Roberto, perdonami, si sente male, però mi pare di aver capito. Mi pare di aver capito. Cioè, Gasperini sottovalutato, fa giocare sempre bene le sue squadre, quasi sempre, insomma, qualche problemino l'ha avuto. L'ha avuto anche lui. Sì, Palermo non lo conto. Più che sottovalutato, maltrattato a Milano sulla sponda interista. Obiettivamente, dopo tre giornate, mandato a casa perché aveva fatto anche un punto, Franco. Sì, ma va benissimo. Ma non piaceva a Moratti, ti ricordi? Non piaceva a Moratti e soprattutto quel periodo, quell'Inter, tutta quella Inter, tifosi, società e squadra erano in qualche modo, vedovi inconsolati, inconsolabili di Mourinho. Cominciamo ad entrarci nel tema del derby di questa sera. Allora, intanto diamo le notizie. Romagnoli non gioca, Franco, perché ha fallito il provino, credo, e quindi non parte dall'inizio. No, ma intanto non è che non gioca perché ha fallito il provino. Non gioca perché non può giocare, perché è andato a casa, perché l'hanno tenuto lì solo e soltanto per, diciamo, un disperato tentativo, perché uno che rimedia martedì sera una modesta lesione, che vuol dire che alcune fibre muscolari si sono rotte, non può guarire. Ma è chiaro, non è una botta. Vabbè, però se lo tieni lì vuol dire che ci provi. Ma sì, non dico che ci speri, ma che ci provi. C'è una questione muscolare di mezzo, non è che un'infiltrazione ti può risolvere il problema. È una roba che ha a che fare più con le macumbe che con la scienza esatta, oppure ha a che fare con una sana lettura delle statistiche che raccontano con e senza Romagnoli il Milan ha due atteggiamenti, andamenti completamente diversi. Quanto perde con Romagnoli, senza Romagnoli il Milan? Secondo me tantissimo, perché intanto, punto primo, era il giocatore più in forma di tutta la difesa. Punto secondo, è l'unico di piede sinistro che c'è nel Milan. Punto terzo, gioca Gustavo Gomez. Gioca Gustavo Gomez, non può giocare Zapata perché è reduce da una lunghissima convalescenza, altrimenti come affidabilità non c'era paragone tra Zapata e Gustavo Gomez. Roberto d'Alessandria. Pronto? Pronto? Eccoci. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a te. Guarda, io sento volentieri la vostra trasmissione, mi piace molto, e mi limito le altre volte ad ascoltare. Stasera ho sentito il bisogno di intervenire perché io inorridisco quando sento dei tifosi juventini che si lamentano del gioco della Juve. Si lamentano di una squadra che ha vinto 5 scudetti consecutivi, sta vincendo il sesto, ha già 7 punti di vantaggio sulla seconda e siamo solo al girone d'andata, è ben messa nella Coppa dei Campioni e difenderà anche la Coppa Italia. Io inorridisco a sentire gente che si permette di criticare questa squadra che ha dato 6 giocatori nel mondiale del 92 alla nazionale dell'82 e 6 nel mondiale del 2006. Sì, però questa è storia, Roberto, cioè io credo non si debba inorridire, cioè io credo che un po' di sana critica ci possa stare. Poi prima abbiamo ospitato un tifoso della Juve che ha detto che Allegri è un allenatore inetto e fino a lì secondo me non ci spingiamo. Le vedove di Conte sono inconsolabili, no, è inutile. Ma c'è questo, obiettivamente c'è questo sentimento che attraversa un po' il popolo juventino, che non ha mai digerito, quasi fosse un rospo, non ha mai digerito l'arrivo e lo sbarco di Max Allegri a Vinovo e sulla panchina della Juventus. Questa è obiettivamente a dispetto dei risultati, a dispetto dei piazzamenti, della finale di Berlino, questo devo dire proprio è il frutto, mi sembra vistoso, di un clamoroso, ingiustificato e oserei dire anche volgare pregiudizio. Tu lo conosci bene, io sarei felicissimo se alzasse quella coppa maledetta per la Juventus e poi salutasse l'intera compagnia. In parecchi devono andarsi a nascondere. Allora, abbiamo il traffico, dopo torniamo e ci sono due grandi ospiti, uno per sponda, un grande ex milanista, un grande ex interista, arriva anche Pierluigi Pardo. 800 24 00 24 traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta. Convocati. Amo Milano perché quando il sole sorge nessuno se ne accorge. No, decisiva non è mai, siamo a un quarto del campionato, insomma è tutto molto prematuro, sicuramente la partita fondamentale per noi, vogliamo continuare in questo momento, vogliamo continuare a toglierci delle soddisfazioni insieme ai nostri tifosi che tanto ci sono stati vicini e ci hanno dato credito anche nei momenti di difficoltà che ci sono stati. Amo Milano perché è la capitale morale del commercio immorale. Credo che questa per loro sia una partita difficilissima e possono pensare che sia difficilissima anche sul piano tecnico. Sono certo che troveremo un avversario che darà il 100% in campo anche in termini di spirito di squadra. Forse non ci conosciamo, ma cara Milano, oggi ti amo per stare bene. Quindi non mi sento favorito, non mi dà fastidio che si dica questo perché la classifica pur conta qualcosa, però i calciatori non devono assolutamente, dico intimamente, inconsciamente, pensare che questo possa essere vero, perché avremmo, in questo caso avremmo già perso la partita. Va bene, intanto arrivano i vostri pronostici. Derby da misero pareggio, vince il Milan, gol di Rodrigo Eli nel finale, vince il Milan perché prende quasi 4 milioni di incasso. Per carità, San Siro ha anche questo lato positivo. Ogni tanto saluto per Luigi Pardo, ciao Pier. Ciao, ciao. Che ciao, è già Pardo. San Siro, saluto anche Demetrio Albertini, ciao Demetrio. Ciao, ciao a tutti, ciao Pier. È un incubo, perché? Grande Demetrio. Perché io sono uno dei più grandi stalker, ovviamente, sì. Di Demetrio, e lo invito a Tikitaka e ma tutte le volte anche domani. Poi lui è terrorizzato dall'idea che il programma sia debba stare lì 3 ore. Io ho detto guarda, basta che tu sia un'oretta. L'altro giorno gli ho firmato, ci siamo incontrati al ristorante. ti ho firmato un accordo formale, no? Per sì. Un'ora formale, certificato, e quindi prima o poi verrò. Avete fatto sul tovagliolo a tutti i convocati, ecco. Secondo me molto più poi che prima, però no guarda, no, non credere sì. vabbè. Diglielo che ci si diverte, diglielo, a parte che è venuto Demetrio, io ti dico Deme, ti posso garantire che è un divertimento unico durante la trasmissione, durante la pubblicità, prima e dopo. Ti dico, è come andare al cinema. Se tu vai al cinema a vedere un vecchio Totò e Peppino De Filippo, la stessa cosa. Poi vediamo la percentuale. Però. Mi dite tutti e due, Demetrio e Pierre, e poi anche insomma chi vuole intervenire, che effetto vi fa sentir dire che questa sera il Milan può andare a dormire da vera anti-Juve, seconda in classifica, con tutto quello che ne consegue, con un calendario non male nelle prossime domeniche? Non lo so, Demetrio. Le parole adesso sono di qua della barricata, quindi però conosco quello cosa bisogna fare per vincere, portarsi a questo sogno, questo punto molto importante che potrebbe essere quello dell'anti-Juve, ma credo che oggi sia una partita veramente veramente difficile, quindi tra il dire e il fare si può sognare assolutamente, lo si deve fare, però c'è di mezzo 90 minuti e non sarà molto facile per il Milan oggi, prevedo. Pier? Ma insomma, Demetrio è la persona adatta per raccontarci queste attese, queste vigilie, perché poi insomma noi le possiamo al massimo raccontare, lui le ha vissute. Indubbiamente ci sono mille motivi dietro a questa sfida. E il fatto che Milan, io non ci credo all'anti-Juve, nel senso io penso che la Juve abbia paio di chilometri di vantaggio su tutte le altre, e la partita e la notizia di oggi comunque andrà a finire che la Roma ha buttato via una grande occasione per rimanere in qualche modo in scia, quindi al Milan capace di insidiare la Juve ci credo poco, francamente. Al Milan capace di costruirsi una buona stagione invece ci credevo prima, ci credo di più adesso ovviamente, e questa partita è bella anche un po' indipendentemente da tutto, cioè, mi verrebbe a dire chi se ne frega della classifica. Questa partita è bella perché è bella, perché è bella Milano, perché è bello il derby, perché sono belle queste due società e perché dopo un po' di tempo, diciamo, sbiadito, questo torna a essere un derby comunque con una camera con vista su qualcosa, sì, che non è ovviamente ancora lo scudetto. Però, insomma, no, ma sono mille temi, ne abbiamo parlato, no? Pier, da una parte camera con vista su un secondo posto, poi secondo me, lo chiedo anche a Franco Ordine, sarebbe un ologramma in Milan come anti-Juve, cioè allora, non è plausibile. No, io devo dire che a quest'ora non è ancora presto per raccontare la favola di Cappuccetto Rosso. Però per lo spritz ci possiamo... No, ma voglio dire, allora, nemmeno mio nipote Jacopo crede al fatto che il Milan possa diventare l'anti-Juve. Il Milan sta facendo qualcosa di inatteso, inaspettato. Secondo me stasera incontra una di quelle squadre, uno di quegli avversari che gli possono mandare di traverso il derby la domenica notte. Terza cosa, nel partecipare ieri alla conferenza stampa, di fronte a quella frase di Montella che dice non vi dico come ho visto la squadra in questi giorni, ho avuto come la sensazione che lui avesse raccolto qualche segnale non positivo. Sì. Ma mi dite se secondo voi ci sono gli 8 punti che oggi ci stanno in classifica tra Inter e Milan, Demetrio? Sì, ci stanno, perché il calcio non è fatto solo di singoli, ma è fatto di squadra, e il Milan ha dimostrato di essere sicuramente più squadra dell'Inter, e l'Inter invece magari nei singoli personalmente la vedo molto forte, e quindi la classifica dopo diverse partite comincia a essere realista. Quindi credo anch'io che, come Franco, la Juventus, ho sempre detto, può solo perderlo lei lo scudetto, quello dobbiamo dirlo sempre. Però il Milan sta facendo qualcosa di speciale, perché quando non ci si aspetta così tanto da una squadra, e poi soprattutto anche di giovani, riesce a fare così tanti punti, vuol dire che sta facendo qualcosa di inatteso e qualcosa di speciale. E per tornare a Pardo, che mi ha chiesto di dire cosa si prova, io ho vissuto il derby, ho vissuti in quattro città diverse, Milano, Roma, Madrid e Barcellona, quindi un po' di derby ne ho vissuti, sì, ed è in tutte le parti una sfida speciale, non sono solo 3 punti che si giocano, ma siccome il calcio è fatto di emozioni e il derby è un'emozione unica a partire dalla settimana prima, la settimana dopo, per i tifosi e anche per i calciatori. Ma in una vigilia come questa del Milan, prova a calarti dentro quello spogliatoio che non è il tuo Milan che o il tuo Barcellona, cioè è una squadra che sta andando oltre le aspettative, che magari stasera sa di potersi aprire prospettive nuove. Cioè, come si vive? Si comincia magari a sentire anche più la pressione. È bello, ma anche pericoloso. Ma pericoloso lo diciamo noi, lo raccontiamo, però nello spogliatoio vivere l'opportunità di toccare qualcosa di importante in una partita del genere, perché è vero che magari non sarà mai all'altezza della Juve o così, poi l'abbiamo detto fino adesso, ma è anche vero far scivolare i cugini così lontani, ancora più lontani di quelli che sono adesso, è una cosa bella per un giocatore, perché è una diretta concorrente per la Champions, e quindi credo che è una cosa... cioè vivi con un'attesa, una speranza. Se alla fine le preoccupazioni sovrastano la gioia di giocare una partita del genere, vuol dire che è difficile che possano rientrare ancora a San Siro a giocarsela. Questo è il valore dei calciatori, bisogna passare anche attraverso queste sfide, no? Scusa Demetrio, ma obiettivamente però il derby di Barcellona, Barcellona-Barça e Spagnol, non mi pare che possa essere paragonato agli altri che hai vissuto. Assolutamente, no, io ho detto, però li ho vissuti in quattro, cioè a Madrid e Barcellona, no, a Madrid no, a Barcellona si sente molto di più il classico. Certo, il vero derby però... è quello là. Sì, però ricordo anche, forse io non c'ero già più, però sono andato a vederlo e ho sentito alcuni giocatori, quando l'Espagnol pareggiò o vinse addirittura al Nou Camp contro il Barcellona e perse la Liga uno o due anni dopo dai via io, no? E quindi è una partita insidiosa, perché le emozioni, non è una partita dei tre punti e basta, c'è qualcosa di più. Chi non la vive così vuol dire che non è, secondo me, non è degno di giocarsi una partita, un derby. Quindi credo che anche i calciatori, anche chi non è cresciuto nel settore giovanile di questa squadra, delle due squadre, però debbano percepire che per i tifosi è una partita diversa. Mi fate fare un giochino, Pier, prego. No, vai. No, ti voglio dire che tra l'altro tutto si sta apparecchiando, perché anche gli altri derby che sono in arrivo, ne avremo tre in quattro settimane. Siano bellissimi, perché la Lazio è molto molto competitiva e lo sta dimostrando, praticamente è alla stessa altezza della Roma. Il Torino è in grande crescita e giocherà il derby in casa, quindi noi adesso avremo veramente in quattro settimane avremo tre derby che non sono solo belli perché sono derby, ma insomma che arrivano tutti con un significato sia di classifica che di motivazioni molto molto, molto elevato, forti. Molto alto. Cioè, quindi ci aggrappiamo a quello, Pier, visto che ci aggrappiamo a quello, c'è una lenta eutanasia del campionato. Oggi siamo ottimisti, si scansano tutti, ha detto Paolo Liguori, quindi il campionato può anche finire qui. Qui no, è una grande squadra. Abbiamo ancora un minuto, me lo fate fare un giochino, visto che insomma va di moda, poi lo facciamo anche con l'altro ospite, lo facciamo con Demetrio Albertini. Demetrio, per ruolo, per competenza di ruolo, tu chi ti prenderesti questa sera, Locatelli e João Mario, chi dei due? Ma io Locatelli, il primo derby, sinceramente è così bello giocarlo, mi ricordo il mio, è una cosa sinceramente meravigliosa, e passerà, non lo so come giocherà, spero bene, e passerà anche attraverso la gestione di questa emozione, la sua crescita. Un po' lo invidi, sì. Molto, molto, perché tutti lo invidiamo, giocare a calcio. Io devo dire che abbiamo avuto la fortuna di fare una cosa meravigliosa, e il calcio è bello per chi lo segue e pensate per chi ha potuto giocarlo. Dai, ci fermiamo, grazie Demetrio. Ciao Demetrio. Ciao a tutti. Ciao Demetrio. Grazie Demetrio Albertini, poi vi aspetto anche con il vostro pronostico, se lo volete fare, se l'avete già fatto venerdì lo ripetete. Io non ho preso appunti, torniamo tra un minuto. Tutti convocati. Io non gliela faccio più, ragazzi. Oh, mi fate fumare una sigaretta. Dai, mezza sigaretta. È in partenza il volo Allianz 0287 con destinazione Paradisi della Serenità. I passeggeri sono pregati di avvicinarsi all'imbarco. Con Allianz. Allianz vinci un viaggio al mese nei sei paradisi della serenità e ogni giorno una bici pieghevole Home. In più, prezzi leggeri su tutte le polizze. Vieni in agenzia o scopri di più su allianz.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Regolamento su allianz.it. State ascoltando un programma offerto da... Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole, nuova meta, stessa passione. Tutti convocati. Non è così che possiamo ragionare. Mi dice che ci facciamo troppo male. Siamo l'Inter, vogliamo risalire, non è la posizione in classifica che ci compete e il derby per noi è una grande occasione e vogliamo fare di tutto per sfruttarlo. Salviamo Milano dal sole, salviamola dalle troppe parole, salviamo Milano dal mare, lasciamola stare. Chiaro che è una partita che, dove il mio contributo dovrà essere importante, ma dove credo che sarà importante guardarsi negli occhi, sarà importante mettere in campo veramente tutto quello che abbiamo e di più, ma io ho visto grande consapevolezza, c'è grande voglia della squadra di dimostrare chi siamo. Salviamo Milano dal pasto, salviamo almeno ciò che è rimasto, salviamo Milano dai tanti che si fanno avanti. Il mio obiettivo è quello di trasferire ai miei giocatori la voglia proprio di andare in campo e buttare sul campo tutte le energie che abbiamo. Noi non dobbiamo uscire dal campo con ancora dell'energia, con ancora qualcosa da dare, noi dobbiamo uscire dal campo avendo dato tutto e di più. Oh, questa è la vigilia di Stefano Pioli. Intanto ci sono i due pullman che stanno marciando compatti verso San Siro da Piano Gentile Milanello. C'è Pierluigi Pardo e c'è Francesco Toldo che saluto. Ciao Francesco, buonasera. Ciao. Ce la racconti un po' tu anche come si vive la vigilia di un derby. Abbiamo sentito prima Demetrio Albertini che un po' invidia ad esempio Locatelli, ricorda il suo primo derby. Sì, beh, dalla parte dei giocatori volete sapere come si vive? Dalla parte dei giocatori c'è molta tensione. Cioè, ad esempio, in questo tragitto qui del pullman che adesso stiamo seguendo con le telecamere di Sky, ad esempio. Addirittura seguite il tragitto del pullman? No, non noi, loro. Noi no, abbiamo la televisione accesa e stiamo guardando. Ma sono 40 minuti che cerchi di concentrarti. Vedi durante il tragitto i tifosi, soprattutto in zona San Siro, in zona stadio, che acclamano oppure indifferenti i tifosi contrari, ma l'importante è la concentrazione che metti nella tua persona e nella tua testa. È un rito che si ripete di ogni domenica o di ogni partita se sei in coppa, e quindi per il giocatore è diventata un'abitudine. Poi il derby è sentito come altre partite, ma credo che l'abituarsi alla ripetizione del gesto, che è anche la concentrazione, per il giocatore non fa tanta differenza, Non fa. Forse si sente tanto il derby dai giocatori italiani, dai giocatori che sono più coinvolti emotivamente. Quelli stranieri credo che sentano un filino meno, gli stranieri sì. Ce ne sono tanti, ahimè. C'è un po' di retorica in questa cosa, che tutti arrivano e capiscono il valore del derby. Allora, il tema aperto per tutti, Francesco Toldo, Pierluigi Pardo, Caro Genta, Franco Ordine, amici da casa, è: che cosa vi aspettate dalla prima Inter di Pioli? Francesco, poi Pier. Io mi aspetto francamente un cambiamento a livello di grinta e di motivazione. Non che prima non ce l'avessero, assolutamente, ce l'avevano anche prima, però credo che sia questa una svolta ulteriore all'interno della terza svolta. La sostituzione di Mancini e l'arrivo dell'olandese De Boer e la presa di posizione di un italiano che non credo che abbia... non ha tempo per ambientarsi, perché è già ambientato essendo italiano e essendo anche tifoso in questo caso dell'Inter. Io vedo che i giocatori non devono più tirare indietro la gamba, non che l'abbiano fatto prima, però devono metterci veramente quel qualcosa in più per far vedere che non era il tecnico, capito? E devono essere loro adesso in prima persona, perché il tecnico è nuovo, devono dimostrare loro Sì, con tutto il bene qualcosina che l'abbiamo sentito da Icardi, Pier venerdì ha detto c'erano tanti che erano scontenti. Adesso vediamo, non abbiamo più alibi. Pier. No, assolutamente no, ma gli alibi non ci sono e le responsabilità dei giocatori ci sono sempre, perché comunque si può non trovare una guida tecnica esaltante, sicuramente De Boer ha commesso degli errori, insomma, secondo me non è stato difeso dalla società, non è stato troppo amato dai giocatori e dai giornalisti, però evidentemente ognuno va alla fine artefice del suo destino e l'allenatore, lo sappiamo, si prende meriti e ovviamente rimproveri se le cose invece vanno male. Quindi questo è indiscutibile, però questo non esenta i giocatori dalle colpe, anzi spesso quando l'allenatore è debole o viene percepito come debole, la cosa più grave è che diventa quasi un alibi agli occhi dei giocatori, no? Che poi, insomma, prima abbiamo sentito Demetrio, adesso c'è Francesco, stiamo parlando di giocatori che hanno fatto la storia del calcio e credo che potranno confermare che non è che poi nessuno perde apposta o nessuno si impegna poco, è che in una sfida, in uno sport così competitivo, così agonistico, dove i livelli e le distanze tra una squadra e l'altra sono così ravvicinate, basta che tu non dia esattamente il 100%, ma dia il 95% sì, e già sei finito. Il punto è questo, no? Sì, però, scusa Pier, però io ho l'impressione, vorrei sentire anche il parere di Francesco, che saluto con un grande abbraccio, del quale ricordo ancora in Olanda la grande impresa. Volevo chiedere questo, dalle dichiarazioni dello stesso Icardi e da quello che filtra da Appiano, si ha quasi l'impressione che al di là dei demeriti e degli errori che pure ha commesso De Boer, ci sia proprio a livello di gruppo una sorta di divisione non maliziosa, non voluta, ma quasi inevitabile, determinata probabilmente dal fatto che sono di nazionalità diverse. Così, Francesco. Ma guarda, è sempre stato così all'Inter, anche quando c'ero io c'erano argentini e brasiliani. Ovviamente la provenienza facilita l'amicizia, però abbiamo vinto, c'erano metà brasiliani e metà argentini e abbiamo vinto tutto. Certo. Con questo io credo che abbiate tutti ragione, e l'Inter è in una fase veramente strana della sua esistenza, ha fatto mille cambiamenti e tuttora li farà, e la voglia è quella di arrivare ad essere una grande squadra, però di rimanerci. Ha ragione Pardo quando dice che ci vuole il 100%, perché quando giochi contro il Sassuolo, contro il Crotone, contro squadre che devono pareggiare a denti stretti, se non sei al 100%, anzi al 110%, e rischi di prendere il gol per distrazione, è difficile farlo l'1-1 e anche il 2-1. Perché il tempo va avanti e mettono i pullman davanti alla porta. Però comunque io questa sera mi aspetto un Inter molto più attenta, molto più accorta, aggressiva. Sì, 10 metri allora, più indietro, con la linea difensiva. Tanto non giocano insieme Candreva, Perisic e Banega, da quello, esatto, che si è capito. In queste partite dovrebbe essere anche quasi quasi naturale, una cosa del genere. E la motivazione dovrebbe essere caricata dall'allenatore nelle partite un filino più meno pericolose, che poi il pericolo c'è sempre di essere distratti. Purtroppo l'Inter ha pagato questo, perché gioca benissimo l'Inter, non gioca male, gioca anche bene, però va sotto per una distrazione che è fatale. Sì, dicevo, intanto stasera Candreva, Perisic, Banega, da quello che si è capito non giocano. Riappare con Dombia, che credo sia la normalizzazione che veniva chiesta a Pioli. Sì, Brozovic. Scusate, ma allora se non ci sono né Candreva né Perisic vuol dire non giocano insieme. Non giocano insieme, è Banega che sta fuori. Banega, questo è il tema. Cioè, i tre più Icardi, evidentemente. Perché me ero spaventato, dico non gioca né Candreva né Perisic. No, ho detto chi gioco io. Giocano insieme, forse mi sono spiegato male. Secondo me la cosa più clamorosa è la scelta di Medel, difensore centrale. Al fianco di Miranda, che vuol dire già di per sé l'idea di far uscire il gioco con uno che è abituato a quel tipo di ruolo. Mi sembra obiettivamente questa, cioè la voglia di fare la partita. Anche secondo me, con tutto il rispetto per i piedi di Medel, quello di, se verrà confermata ovviamente, da un lato di riconoscergli una sorta di personalità all'interno leadership, della squadra, sì. Dall'altro però di voler avere lì in mezzo al campo dei giocatori con caratteristiche un pochino migliori sul piano strettamente qualitativo, quindi mi sembra una doppia scelta, una scelta diciamo tra virgolette estetica, protesa verso la qualità del gioco, e dall'altra però evidentemente la legittimazione di un giocatore che sappiamo che ovviamente è molto importante per quei valori, diciamo, extra tecnici, no? Per quella grinta, per quella garra, per quella personalità che ha fatto sì che diventasse quasi insostituibile, pur non essendo sicuramente quello con i piedi migliori dell'Inter. Quindi mi sembra questo. Approfitto anch'io per salutare Francesco e per ringraziarlo, perché ora che ci penso, io ho passato una delle giornate più belle della mia vita con mio padre quel giorno lì, e quindi adesso glielo dico proprio perché eravamo insieme in quell'Olanda, Italia, in quell'Olanda Italia, l'ho vista con mio padre all'Amsterdam Arena, è stata una giornata più bella veramente della mia vita, insomma, sicuramente della mia vita calcistica, ma direi della mia vita tout court. Ma è una, insomma, è una di quelle giornate che tutti ricordano dove erano, dai. Abbiamo un paio di minuti, poi c'è il traffico, salutiamo Francesco, però faccio sintesi, Francesco. Faccio sintesi dei messaggi che stanno arrivando e che riguardano Donnarumma. Allora, facciamo un giochino, questa sera, non fra 10 anni, questa sera, tu chi ti pigli, Donnarumma o Handanovic? Francesco. Io Handanovic, con tutta la simpatia per Donnarumma. Donnarumma è un giovane che sicuramente avrà una brillantissima carriera. Andiamoci piano con i vari giudizi. Ha talento, ha tutto. Deve migliorare tantissimo perché la sua età lo impone. Il suo carattere è fantastico. Io vedo che più di ogni altra cosa è il suo carattere. Ma ragazzi, ma Handanovic sta facendo veramente i miracoli, purtroppo in un ambiente che non lo supporta, e nonostante questo continua a farli. Se fa un errore se lo ricorda il mondo intero, se fa 20 parate passano normali. A questo ragazzo ha parato in quanti anni? 35 rigori, ha fatto delle parate ultimamente che passavano normali, ma se le fa un altro portiere e sembra che venga, che cada uno, un miracolo. Donnarumma è portato adesso dalla stampa. Ma è un predestinato o è portato dalla stampa? Francesco, guarda, Donnarumma... dalla gente Raiola. No, ma è giusto che sia così, è nella fase che viene portato dal mondo intero, per carità. Però ricordiamoci che sempre è un ragazzo giovane che è all'inizio, quindi va benissimo tutto quello e proteggiamolo, lo dico anch'io, perché se per caso dovesse sbagliare, pazienza. Non è un problema. Io mi ricordo che il giovane Antonioli prese un gol nel derby e sparì dal mondo del Milan. Certo. Non deve essere una cosa simile, per carità, perché sbagliano tutti. Chi fa sbaglia. Quindi, benissimo Donnarumma, andiamo, portiamolo e proteggiamolo perché è un capitale italiano. Grazie Francesco. Ciao Francesco. Prego, un abbraccio. Ciao. Grazie Francesco Toldo. Allora, io so che devo salutare Carlo Genta, che ritrovate domani dopo il giro delle 14. Tu, Pier, che fai? Io sto per fare un collegamento e poi farò la telecronaca in 4K, la prima volta, quindi anche, diciamo, l'evento storico del calcio italiano, 4 volte la qualità del Full HD, quindi chi ha premium stasera basta avere premium, con televisione 4K, canale 391, e se lo può godere così. Allora, buona partita, Pierre. Peccato per la telecronaca che è la mia. La però c'è anche Arrigo Sacchi che alza, alza la media. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie, Pierre. A domani. Ciao. Traffico, torniamo subito. Traffico. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobo Vier. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... convocati. Sì, voglio vincere sempre derby. Sta facendo la conferenza con stampa, filosofia filosofia di gioco, sempre abbiamo la direzione giusto. Allora, ci dia la formazione, visto che tanto l'ha fatta Pioli, quindi non conta nulla. Giocatore. La formazione. Gioca Medel, giocatore in difesa, ma questa è la formazione di Pioli. Giocatore di difesa, Banega, problema. Quindi non problema gioca. Banega di non gioca. Polpaccia. Sì. Polpaccia. Sì. Gioca con Dogbia. Con Dogbia, no. voglio sempre vincere e spero. No, giochiamo come amateurs. Hai capito, posso, Franco, però, che fortuna posso, abbiamo noi. Certo. Se posso dire, però, la scelta di Condobbia ha quasi un valore simbolico. Sì. Cioè è il giocatore, tra virgolette, cancellato da De Boer per quella per quell'inizio di partita e che viene rilanciato nella serata più complicata e più delicata della nuova avventura di Pioli, devo dire, ha proprio questa connotazione psicologica, cioè tu sei stato maltrattato, sei stato considerato meno di niente, adesso vai in campo e fammi vedere che cosa sei. Ma io devo dire che se le scelte sono queste, sono confermate, quindi Medella arretrato in difesa, con Dobbiá, Brozovic, con Joao Mario a centrocampo, fuori Banega, insomma se le scelte sono queste, aveva ragione Pioli quando ha detto: io non sono un normalizzatore, sono qui per provare a incidere. Un potenziatore. Insomma lui ha avuto poche ore in mano la squadra, sì, tutta la rosa completa. Questo obiettivamente. Cioè quello che vedremo stasera non è sicuramente l'Inter che troveremo tra un mese o addirittura a gennaio, perché allora capiremo veramente quale sarà l'Inter di Pioli. Lui in questi poche ore a disposizione in cui ha avuto tutto il gruppo ha potuto dare soltanto 2 o 3, 4 massimo 5 indicazioni, 5 consigli, perché in questi casi riempire la testa di cose nuove ai giocatori non è mai una buona soluzione. Secondo te Montella cosa si aspetta dal mercato di gennaio? Sorvoliamo per un attimo sulle questioni di closing, autorizzazioni, banche, sì, fidi e tutto il resto, insomma. Sì, ma io secondo me Montella fa questo ragionamento a chi si presenterà in nome e per conto del fondo cinese, e cioè Fassone e Mirabelli, dirà: allora la squadra l'avete vista, secondo me è andata oltre le sue possibilità, qui per migliorarla nettamente occorre un esterno sinistro di grande valore e almeno un difensore e un centrocampista. Sì, faremo dei grandi acquisti. No, ma lei non li promesso, farà, Presidente. Faremo degli acquisti molto coesi, molto positivi, per sì, dimostrare che abbiamo una grande organizzazione di gioco. Sì, fa un po' effetto che questo sia forse l'ultimo derby di Berlusconi da presidente. Non da presidente, da proprietario. Ecco, da proprietario, perché formalmente, rimanendo lui presidente onorario, rimane comunque... sarà comunque coinvolto negli altri derby. Più che un certo effetto, devo dire che mi provoca una malinconia struggente in me personalmente. Bravo Franco. Credo anche negli interisti che hanno comunque apprezzato e amato, per esempio, la generosa presidenza Moratti. Io credo che insomma quello che ha realizzato Berlusconi in 30 anni credo che sia irripetibile. E anche annuncio fin da oggi che le due prove che attendono i cinesi, e cioè il mercato di gennaio e il rinnovo del contratto di Donnarumma in febbraio, sono due prove che, se fallite, faranno fare una brutta fine ai nuovi proprietari. Si parte col piede sbagliato se dovesse uscire qualche problema di troppo sulla questione Donnarumma. Sì. Se mi permetti, caro Capuano, sì, volevo dire fare un comunicato. Sì. Vorrei fare un comunicato al mio medico personale, sì, e dirgli: allora, niente più antidepressivi, sì, voglio Franco Ordine al mio fianco, vita naturale durante. Va bene, proveremo a provvedere. Intanto Antonio Conte si è ufficialmente preso la testa della Premier League. Il Chelsea ha vinto 1-0 in trasferta contro il Middlesbrough, ed è primo in classifica, 28 punti, perdonate, Liverpool, Manchester City 27, Arsenal 25, e noi con un pizzico di invidia, insomma, seguiamo quel campionato lì dove ci sono quattro squadre in tre punti. Due mesi fa lo volevano mandar via. Sì, sì, e c'erano i bookmaker che lo dicevano. Abbiamo finito, buon derby a tutti. Io saluti, ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Filippo Aureggi, Gianmarco Ferronato in regia, il nostro Andro Mercu con le sue voglio mille voci. Vincere. Ci sentiamo domani dopo vincere. Il GR l'Europa delle 14. Io. Ciao a tutti. Io. Fatto, dai. Spegni il bianco, il rosso o il verde. Dai, uno dei tre. Spegni.